Con Marlene Scalise per parlare della sesta edizione di Riscarti Fest, che sarà a Roma al nuovo cinema Aquila dal 14 al 18 dicembre. Marlene, ben trovata. Ce Buonasera a tutti. lo presenti? Allora, il festival è alla sesta edizione, quindi forse qualcuno già lo conosce o ne ha sentito parlare. È il festival di riciclo e degli stili di vita sostenibili della capitale, per la prima volta però al nuovo cinema Aquila, quindi in un territorio, insomma, che è un po' periferico, che va riqualificato. Quindi il primo appuntamento di questo festival sarà proprio quello di uscire in strada con gli artisti e i cittadini che vorranno partecipare, quindi professionisti, non professionisti, non servono molte capacità, ma solo immaginazione. Quindi si andrà in giro per il quartiere, si sceglieranno degli oggetti o vicini ai cassonetti o insomma buttati. Insomma, questi oggetti hanno sicuramente evocativi per qualcuno, catturano l'attenzione, si recuperano e si creano delle sculture e delle opere a partire da questi stessi materiali. Quindi si fa un'operazione proprio di rigenerazione, perché poi il senso del festival è quello di riaccendere un'intelligenza green, un sentimento green. Com'era nato tutto? Posso dire, insomma, che sono l'ideatrice, che semplicemente è un modo, insomma, per portare avanti, per ricordare, insomma, i tempi passati, no? Quando non si buttava via niente, e allo stesso tempo però è un sentimento molto contemporaneo, di sapere che abbiamo pochi minuti ancora, pochi, no, minuti magari no, però insomma i minuti scorrono. E il tempo sta per scadere prima che il pianeta collassi, perché ovviamente c'è un problema energetico. Quindi attraverso pratiche, sensibilizzazioni, mostre, come dire, l'idea di cambiare un po' l'approccio al rifiuto e vederlo come una risorsa che può essere trasformata e può generare nuove possibilità, no? Di forma, di trasformazione, di efficacia. Come saranno strutturate queste giornate? Fondamentalmente la mostra dura per tutti i giorni, quindi dal 14 al 18, si apre il 14 alle 19:30 e si chiude martedì alle 21:30 con una serie di performance, sempre incentrate sul tema del riciclo, quindi o di sensibilizzazione o che utilizzano per esempio strumenti costruiti con materiali di recupero. E questa sarà la festa di finissage, quindi invito tutti. Poi ci sono delle proiezioni, siamo al cinema, per cui film indipendenti che raccontano appunto realtà o in pericolo, o insomma, sempre sui temi green, cinema ambientale. E il workshop, come vi dicevo, il primo giorno, quindi ecco. Anche una collaborazione esterna allo Spin Time Labs, che invece è a Santa Croce in Gerusalemme, lì con il menù Amico del Clima, in collaborazione con Slow Food. Faremo una serata dalle 18, sabato 15, dove il cibo è focalizzato sul chilometro zero, sulla stagionalità. No? Perché appunto in tutti i gesti, in tutti gli aspetti della vita, no? Potremmo assumere un atteggiamento più critico o consapevole almeno, no? Di quello che stiamo facendo, per cui con le nostre scelte di consumo possiamo influenzare le sorti del pianeta. E noi lo facciamo attraverso l'arte, la cultura, l'intrattenimento, e così sarà strutturata, insomma, questa 5 giorni dedicata al riciclo. Ok, allora ricapitolando gli orari e i luoghi. Allora, i luoghi sono il workshop alla biblioteca Mameli in via del Pigneto, all'isola pedonale, ore 15:30, 18:30. Invece, inaugurazione della mostra venerdì 14 alle ore 19:30. Poi sabato la cena con Slow Food allo Spin Time Labs dalle 18 in poi fino a mezzanotte. E poi martedì 18 dalle 20:30 ci sarà il finissage, la festa con tutti gli artisti e prima delle proiezioni. Quindi insomma, comunque si può vedere il programma aggiornato sui social, sulla pagina web. Riscarti Fest, c'è cioè sia la pagina Facebook che il sito internet. Il sito internet è www.riscarti.com. Ok, benissimo. E allora ricordiamo la sesta edizione a Roma, al Nuovo Cinema Aquila, ma non solo, dal 14 al 18 dicembre. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice Marlene Scalise. Un abbraccio, in bocca al lupo e a risentirci presto. Vi aspetto tutti tra il Cinema Aquila e la biblioteca, insomma, per partecipare a questo evento. Grazie.